luci si riaprono gli occhi, ci capiscono meglio di noi. E ti metto davanti agli specchi, anche quando non vuoi.